Ce l'ho qui da valore, è andato via al garaggio. Scatolettini, di tutto di più. No. E scatole, confezioni di tramezzini mangiati, di tutto c'era. Un bordello, infatti, ui. Sì, era caduta la sabbia del gatto che avevamo portato dal veterinario, parte della sabbia, non tutta. Insomma, incredibile. Ehi, ma l'hai trovata in un periodo, uno dei peggiori periodi, quello era. Sì, dal veterinario con la sabbia l'ha rigata, non lo mettono in trasportivo. Sì, ma mamma previdente, l'avevo portato una piccola, come dire, una piccola fangulu, un piccolo coso con la sabbia, un piccolo contenitore con la sabbia, così se gli scappava, perché il gatto nostro fa sempre così, quando lo porti fuori casa, come arrivi a metà strada al veterinario, la deve fare, capito? E un po' era caduta, sai, con le fosse che prendi a Sassari, ma niente di che, ma non credo fosse cagata nemmeno. Ho capito, va. Vabbè, io dal veterinario c'è un rotolone di quelli industriali, se il cane è sporco prendi, lo strappi il coso e lo pulisci, no? Non c'è problema. Lo devi fare tu però, sei un service. Poi ti sciacqui le mani, tutto quanto, c'è il rubinetto con sapone. Gappa. Va bene, là. E comunque è un casino con questo coronavirus, è un casino, bisogna stare rinchiusi in casa, chi deve lavorare non ne può fare a meno, quello sì. Oh Claudio, io mi ricordo che in prossimità di una revisione Ivan mi aveva aiutato a pulire la macchina anche dentro, dice ma non si tiene così la macchina, e poi era tutto pieno anche di sabbia, di aghilippino, no, perché era periodo estivo, dice non si tiene così la macchina, dice si era spaventato, bucce e caramelle, di tutto, tranne che profilatici però, purtroppo. Poi qui ci deve venire il cofano, vai vabbè. No, io gatto devo dire le macchine sporche, sono di indole ordinato io, guarda, molte volte mi capitano le macchine in officina, che schifo, cacchio, mi lavo 20 volte e mi soffio, perché ci sono degli zozzoni, ma anche donne, la cosa più schifosa alle donne, posso capire un uomo un pochettino che non è amante della pulizia, ma una donna, quando una donna è sporca, mamma mia, è la cosa che mi fa più senso di tutti. Hai visto l'altra mattina dentro che tu quando stavo parlando con Marco da te, vabbè, Marco c'è il capitottino, lo ci abbiamo, l'ho visto la mia, dai, provate veramente complimenti, per dire che questa macchina sembra uscendo, cioè scenichi, nuovi, intendi, però guarda i tappeti, non c'è niente da dire, veramente in ordine la tua macchina. Claudio, l'altro giorno sono andato a lavare la macchina, sai cosa mi è successo? Praticamente l'ho lavata le spatole, no? Però con le spatole che ci sono a canica sono di quelle morbide, tipo la spugnetta che si usa per asciugare il lavello, così sono fatte di quel materiale lì, me le ha fatte anche toccare, gli ho detto no, ma me la gratta, no, questo qui sta tranquillo che non ti gratta. Pensa così. Sì. Beh, fatto sta che arrivo alla fine del coso e non mi trovo questa macchina davanti, parcheggiata. Cazzo, la macchina me la spingeva io suonando, bi, niente, la macchina andava sempre più avanti, c'era la macchina davanti. Cazzo, per poco non mi sbatta quella macchina, ha fatto in tempo a torre, ha detto che se l'aveva dimenticata. Cazzo, l'ha portata, questo tipo l'ha piazzata davanti al coso, quando mai la deve mettere allo sbocco, all'uscita del coso della faccia, ma dimmi tu. Quindi c'è il rulli che spingemi, non freni, no? Ho venuto la frenando, Gianni, lascia perdere, se ti siete il mio genere o guai, lascia perdere, cazzo, io la macchina nuova la porto alle spatole, sono sempre uguali, dicono coglionate, anche quelle graffiano, sono in settola, graffiano lo stesso, nel modo più assoluto, cazzo, tutte le mani o guai, lui mica è pignolo, lui c'ha anni di esperienza, ma veramente. E cercati tu, immaginati che c'è una persona che conosciamo che la macchina rilava solo mio genero esclusivamente, solo mio genero, non macchine grosse, macchine da 70-80 mila euro, solo esclusivamente lui, non le portano mai, le lasciano a parte, per la delicatezza e la serietà che c'è lavorando con la macchina. Lui è contrario, lo sai quante volte, dai, la porto alla spazio se sei pieno, lasci stare la macchina, oh, me la porto là, no, lasci stare la macchina, vabbè. Perché a me mi, Roberto già l'ha vista, che l'ho fatta vedere, ti ricordi com'era la mia cappotta, Roberto? A me me l'ha rovinata proprio il sistema dell'asfalto della macchina, perché io tutti i venerdì andavo all'asfalto e lavavo la macchina, mi ha mangiato lo trasparente, Gianni, quindi stai attento, è preferibile che te la lavi tu, capito, che andare all'asfalto, perché sono stronzate, non serve a niente, anche se sono morbide, che sono qui, che sono, è sempre un rullo che gira, e te la graffia la macchina. Oh, io le ho toccate, sono morbide morbide, sono proprio come presente gli spontex, le spugnette spontex, quelle che si usano per asciugare il lavandino, la stessa morbidezza c'hanno, non sono fatte, una cosa è che siano di materiale tipo usati mousse di plastica o cose del genere, e un'altra cosa è essere di spugna, che sono più morbide, sono più lievi come spazzolano, capito? È un rullo che gira, quello che dice mio genero, signor Cla, è un rullo che gira. Se c'è una pietrolina sopra la macchina fa un disastro, capito? O se nella spugna stessa, perché anch'io gli ho fatto questo ragionamento, ma quella è morbida, no, non c'entra niente. Se c'è un'impurità, se c'è una cosa nella spugna, il rullo gira, graffia la macchina, assolutamente, mi ha detto. Le spazzole vanno vietate, soprattutto per le macchine nuove, perché tutto il sistema che c'è raschia sempre, ti rimane a tutto lo trasparente. Non sto sbagliando, Roberto. Infatti volevo aggiungere, mi hai anticipato tu, ricordatevi sempre, non è tanto il materiale duro o morbido, si accumulano dei granelli di polvere, possono essere piccoli, grandi, già quando ti pulisce la macchina tra le zuppa, la polvere vola, basta un granellino, soprattutto nei colori scuri, si nota tantissimo, tu ti vedi questi segni circolari, tutti sulla macchina, controllatela al sole, quando è tutta bella asciutta, e poi ti dici se c'ha ragione zio Claudio o zio Roberto, già. È matematico che la polvere si accumula, non sei in un ambiente sterile in camera operatoria che non c'è di polvere, la polvere vola, per cui sui coso, sulle setole, sui coso, sui tessuti che usano per coso, per girare questi rulli, si accumula la polvere, è inutile che la giri, poi puoi mettere la nuova comprata adesso, non la metto, c'è sempre della polvere nei condotti, nei passaggi, nei soffianti, c'è sempre più. Vabbè, io l'ho lavata due o tre volte, l'ho controllata, l'ho fatto quel lavoro a metterla sole a controllarla, non è per niente. L'altra sì, l'altra me l'aveva tutta cosa fatta a cerchi sopra la cappotta, eccetera eccetera, però questa qua no, grazie a Dio non me l'ha rovinata, allora non vado più di Rusog, ma non me l'ha rovinata perché l'ho già controllata al sole ed è perfetta, forse anche perché io gli faccio mettere sempre la cera, eccetera eccetera, quindi non si rovina così facilmente. È matematico, Gianni, ascolta, è matematico quello che ha detto Roberto, quello che sto dicendo io, ma non lo dico solo io, lo dico la Vagisi, ma non perché hanno niente da perdere, cioè oggi non è una futinuda, capito, anche perché c'è molti amici che hanno gli otto lavaggi come Claudio Petrone, come quello che c'è lì a Predanieta Grande, c'è Servi, sono tutti amici di mio genio, quindi non gli frega niente, lui lava le macchine come i vecchi tempi, fatta bene. Però mi ha sempre detto attenzione, molta attenzione, perché il sistema del rullo è quello appunto dell'accumulo della polvere, quando rimane fermo, non è che ogni 5 minuti in funzione, 5 minuti, rimane anche fermo, capito? E il problema è che è sempre bagnato, quindi quando c'è una giornata ventilata, cosa succede? La polvere si accumula nella settola, quando gira il rullo può anche essere meno grave, ma nella spugna si accumula la polvere, e quando ti rulla sopra la cappotta o sopra il cofano, ecco te la graffia, a te ti può essere andata bene, però stai attento perché i graffi non è che li vedi così, li vedi magari con l'andare del tempo, capito? Perché a me me ne ha mangiato tutto il trasparente, ma ho dovuto rifare tutta la cappotta. dicendo, stai molto attento, stai molto molto attento, è preferibile metterci mezz'ora di sacrificio. Io quando me l'avevo lavata, io non mi lavo macchina, chi me la lava mio genero, però quando ho voglia di lavarmela io, me ne vado a Predanieda, metto un gettone e me la lavo io, faccio la spugna, faccio il detersivo, poi l'asciacquo con la pulivapore, apposta, e poi me l'asciugo. Tutto qua, capito? Già, stai molto attento, perché i rulli sono molto pericolosi, sembra che non lo siano, ma sono molto pericolosi. Vai Roberto. Poi la cosa più grave, adesso ti dico una cosa, poi se lo sa anche Claudio, allora quando ti devi lavare la macchina, io consiglio uno che deve andare, vai in questi aggettoni, usi l'acqua desalinizzata calda, possibilmente in modo che ti, se c'è qualche insetto te lo tira via, la scaldi bene, soprattutto per ammorbidire questi insetti, ti porti una spugna morbida, solo acqua, non usi liquidi, schiuma eccetera eccetera, che ti rovinano tutto, perché c'è soda in mezzo e ti rovina tutto, basta vedere come diventano le cappotte, soprattutto quelle scure, e i fari in policarbonato diventano gialli col tempo, a forza di lavare, me ne portano centinaia a me da fare, proprio per questi qua. Usa acqua e boh, desalinizzata, calda se c'è, gli passo una spugna morbida, quelle morbide morbide, poi se c'è qualche cagata che non riesce a toglierla, ti porti un shampoo neutro per capelli, te ne metti un po' nel secchio, gli dai una passata a tutta la macchina e poi risciacqui, neanche asciugare, la lasci asciugare all'aria, vedi che la vernice ti dura 20 volte di più, senza usare mai schiume, perché le schiume sono molto aggressive, dice ti metti la cera, sono sempre prodotti aggressivi. Oh, Gianni, ma a te te lo fanno quel sistema, prima che la macchina entri nel rullo, no? Ti fanno il lavaggio, iniziano a spruzzare i prodotti sopra, poi le vanno la polivapor, poi ti spruzzano che è un acido, mio genio ha detto quello sia un ca, è un acido, per togliere il nero dei freni, dei feroni, capito? Che ti spruzzano. Quell'acido lì, lo sai come ti fa i cerchi? Eh? A me me li ha tutti rovinati i cerchi in lega, Gianni, tutti rovinati. No, a me prima di entrare nel coso si spruzza questa cosa che sembra la neve, sembra la neve, è quello che tira di bianco, è liscio, la lava col free vapor e poi la fa entrare dentro alle spazzole. Comunque io avevo un amico carrozziere che mi diceva l'unica cosa per lavare la macchina è la pompa normale, mai usare pulivapor perché dice che fa penetrare l'acqua in tutti i guzzoni, dice che entra l'acqua e poi si ristagna lì e arrugginisce la macchina. Vabbè, la pulivapor vorrei saputo anche usare, non è che la devi buttare sopra le guarnizioni o dove ci sono i vetri, vorrei saputo usare, ognuno ha il suo mestiere. Quello è un acido, quello che a te ti sembra una manna dal cielo, quella schiuma bianca è un acido, capito? È un acido. Mio genero lava le macchine, ma ti sto dicendo macchine costose, costose, non ti posso dire a chi, ma già mai capito, costose, gliele lava solo lui. E usa i prodotti bio che costano detergenti un mare di soldi. Quelle cagate che usano, che tu vai a portare la macchina 7 euro 8 euro a rullo, quegli acidi, quelle cose che buttano sono corrosive, capito? Sono corrosive, non ti li va puli. E io prima già andavo a Città Mercato, me la lavavo io lì, poi ho visto che ne stavano lavando con 5 euro esternamente solo, poi dentro me la facevo io, tanto dentro la tengo sempre pulita, d'inverno la macchina la vado a porto poco, almeno che ci sia bel tempo allora la porto, se no la macchina d'inverno si sa, piove eccetera, ma dentro la tengo sempre pulita e profumata, sempre col profumo e tutto. Io lo so che tu c'hai la macchina di bagagli, già mi sono seduto, sempre bello ordinato e pulito. Però ti sto dicendo, se vuoi un consiglio da uno che ha un genero lavaggista, ti sto dicendo non farti lavare in quella, la macchina in quelle condizioni, perché con 3 euro, con 3 gettoni, tu fai prelavaggio e lavaggio, te la lavi tu con 3 gettoni. Io vado a Predanieda lì, dove c'è per andare alla Portobello praticamente, lì vado lì, mi prendo il mio posticino, mi entro dentro, c'è il coso e non uso nessun prodotto, niente, nulla, acqua, poi detersivo, la risciacquo, appoggio, senza nulla, ok? anche il nero gomme, che è nero gomme. Il nero gomme non bisogna usare quello che compriamo spruzzo così dai cinesi a Città Mercato, quello non va bene. Il nero gomme bisogna usare quello col pennellino diluito con l'acqua, e come fanno i lavagiteri della mappa, perché quello lì la gomma te la spacca, capito? Ecco, tra il sole, tra il caldo e il freddo ti spacca la gomma, capito? Come lucidacruscotto, non se ne usa, ci sono altri prodotti per lucidare i cruscotti, che sono a base appunto dei prodotti bio, che non fanno male alla plastica, tutte cose che a me mi dice mio genero, che lui è contrario, lui dice sì, faccio pagare 5 euro in più, però i miei clienti sono tutti contenti, perché io quando consegno la macchina, la consegno a posto, e con tanto di garanzia, capito? Perché non è la prima volta che è successo, proprio con la Bully Vapor, capito? Quindi bisogna stare molto attenti a lavare la macchina, soprattutto quando la macchina è nuova, ma anche quando è vecchia, perché la macchina ce l'ho tanti anni, ma la mia è a posto, perché l'ho sempre curata lui, che c'è più di 10 anni con mia figlia, ma l'ho sempre curata anche io, non l'ho mai lavata con prodotti del cazzo, capito? Guarda, io uso nero gomme, uso quella Allegrini, l'ho comprato a Porto Torre, da Coso, da Mamili. Quando c'è da Porto Torre, se passa me lo compro, quello lì è concentrato, tu gli metti l'acqua e lo spruzzi e non ha mai rovinato le gomme. L'unica cosa che c'è è che se ti fai altri posti rimane appiccicoso ed è brutto quello, però come diciamo, come nero gomme è buono. Lucida cruscotti non li uso un panno umido e la pulisco col panno umido e basta. Oppure acqua e zucchero per le gomme. Un amico mi lucidava le gomme con una naffata. Gianni, forse non mi sono spiegato, ti sto dicendo prodotti seri, io ho parlato di non comprare prodotti al Città Mercato o prodotti dai cinesi per pulire la macchina, in generale, che sia per l'interno che sia per l'esterno. Quando tu parli di Allegrini, io con Antonio Manuta, che è praticamente il rappresentante generale per il Nord Sardegna dell'Allegrini, è quello che fornisce tutto, perché c'è il capannone a Porto Torres, anzi c'è la Predanieta anche adesso, quindi lo conosco molto bene. E stiamo parlando degli Allegrini, non stiamo parlando di quello che ho visto ultimamente. Uno la vendesse la macchina vicino a me, poi ha preso questo prodotto ed era tutta roba dei cinesi. Stavo per dire, ma lo vedi, stai rovinando la macchina, che cazzo stai lucidando? Anche Fascioni ha fatto con questa schiuma che spruzzava, questa bomboletta schiumogia, tutta roba dei cinesi, capito? Vabbè, vai Marco, riprendi. Io poco la curavo, tanto era già usata, comprata usata, pure sportellate, le toccatine avanti e dietro, insomma. Non avendo il garage, nel garage ci sta solo la moto, in quel tipo di garage, non me ne fregavo, come vedevi i primi grafici, ho detto vaffanculo. Tu pensi invece che negli anni 90, nel 95, c'era un amico che aveva preso una Maserati, non nuova, ma usata ma in perfetto stato. Aveva fatto l'errore di fare il primo lavaggio in quegli autolavaggi con i rulli. Sì, è uscita pulita, però in base alla luce che picchiava sulla macchina avevi tutte queste micro rigature, e si è messo le mani in testa, dalla volta non c'è più andato. Ma doveva aspettarselo, no? Vabbè. Roberto, se ci sei, riprendi, se no Claudio. Riprendo io, dai, adesso devo andare via, devo fare qualcosa, dai, vi saluto, ciao Marco, ciao Claudio e ciao Gianni, e se c'è ancora Luca, dai, ci sentiamo in un altro momento, ciao, correti da parte mia. Ciao Robè, ma ti ho ringraziato per la mascherina, Robè. Dimmi. Ti ho ringraziato per la mascherina, non solo a Danilo ringraziato. Picca, ti lascio la ringraziare. Già ce ne facciamo di favore, non ti preoccupare, ci mancherebbe. Ciao Robè, un abbraccio, dai. Se ce la faccio già posso anche la mano. Buona serata. Chi è che ha detto ciao? Ciao, è Alghero. Ah, Alghero, la chiesa di Sant'Agostino, lo sai dove tu, Claudio? Sant'Agostino, tu lo sai dove è Sant'Agostino? Se ti lo so con domande, neanche non lo so, potremmo andare da un amico, però non lo so dove. Allora, la chiesa di Sant'Agostino praticamente è 1, 2, 3, 4, perché è via Leonardo da Vinci, vi abita mia sorella, 5... sempre. Guarda, non mi ricordo se la sesta attraversa a sinistra di via 20 settembre, sale sino in fondo, sale sino in fondo. Se no, quando sei via 20 settembre, che è la via principale praticamente entrando dal Mariotti, da lì è l'inizio, no? Se tu entri da Olmedo, dalla strada, vabbè, che fa anche Olmedo, entri a sinistra via dei Loro Amici e sali sino su in fondo. Lì praticamente di fronte a quella chiesa abitava la buona anima di Giuseppe. Sapete, Giuseppe di Alghero è morto, sì. Sì, sì, me l'avevi detto. Ho capito, dai, al centro rimane, al centro di Alghero. Guarda, via 20 settembre è la via principale, quella che scende sino a giù alla torre, al mare praticamente, alla passeggiata Aragona, ok, e inizia dall'inizio dove c'è il campo Mariotti, praticamente si entra lì, dove c'è la Conade praticamente, per farti capire, dove si è incendiato quel palazzo, ecco, tu entri lì a sinistra, poi si gira a destra, quello è l'inizio di via 20 settembre, è lunghissima, tu stai attento a sinistra, c'è via Leonardo da Vinci, ok, oppure vai anche più avanti, una di quelle traverse, la più, adesso mi ricordo se la sesta, la quinta, la sesta traversa a sinistra, ti porta sino a su, perché quella strada sale poi e taglia con via Giovanni XXIII, che è quella che va a Scala Picciata. Gappa, gappa, andate, dai, almeno per avere un... Mamma che già c'è il tonton, mi metto il tonton, io ci ho pensato. E la ciappo subito, mi porta direttamente sotto al portone, però più o meno per sapere la zona, di che tipo di tiro, dove rimaneva esattamente. Avanti Marco. Non lo sapevo di Giuseppe di Alghero, non lo sapevo, vabbè, comunque non era più entrato da parecchio anche. Vabbè. Quanti anni era? Quanti anni aveva? 94. Un bel traguardo, e diciamo che non si può lamentare, dai. Ma perché è morto il periodo del coronavirus, quindi ha iniziato a far male, anche perché ha avuto un problema ai denti, quindi masticava male, respirava male, era sempre un punto di ginocchio quando lo sentivo al telefono. Poco capivo di quello che diceva, infatti diceva, ma com'è? Ma giorno anche, capito, parlava molto male, e poi insomma si è un po' aggravato con il fatto del coronavirus, non usciva, insomma, non ce l'ha fatta. Io tra l'altro ho sentito anche la nipote, mi ha detto di andare per vedere questa roba, cosa si poteva fare, invece poi se ne è occupato un nipote, non so che fine abbia fatto l'attrezzatura, che tra l'altro metà dell'attrezzatura che avevo l'ho lavorato tutta io. Comunque non mi sono messo in mezzo, ho detto arrangiati. Vedete voi, mi aveva chiesto di quantificare quanto c'era da poter vendere, e invece poi se ne è occupato un nipote, quello che aveva prestato l'antenna, che lavorava la GBC, insomma, ho detto arrangiati. C'ho altre cose a cui pensare, basta. Mi ha detto anche di andare a smontare l'antenna, invece l'ha smontata il nipote, non so che fine abbia fatto. Se si era venduta cosa ha fatto, insomma, non mi sono messo in mezzo, guarda. Tutto qua. C'è proprio la via che si chiama Via Sant'Agostino, ed è sempre, mi sto dicendo mia moglie, sempre una traversa di via 20 settembre. In pratica tu fai via 20 settembre e ci sono molti semafori. Ad un semaforo stai attento, leggi Gioielleria Barracco, ok? Proprio ad angolo fa, con via Sant'Agostino. Tu giri lì e ti porta sino a dove c'è la chiesa. Cioè via Sant'Agostino proprio. E lui abita di fronte alla chiesa, di fronte. Magari è pure un parenti. Sì, questo qua, vabbè, là. È per un lavoretto che devo accompagnare una amica che deve dargli un lavoro. Vabbè. Manda le ciance. Comunque Alghero d'inverno, è un po' vuota, siamo andati una notte, tutto chiuso era, non c'era nessuno nei locali, niente, d'inverno. un buon studio. Come portatore, la stessa cosa, mi cosa pensi che sia? Alghero, portatore, Scattacciardo, Lubagno, cosa ti posso dire? Santa Teresa di Gallura, cioè su tutti i posti turistici, dove è chiaro che d'inverno ti gatta rubucco, capito? Guarda, di fronte alla chiesa, proprio di fronte alla chiesa, a destra c'è la Cisa, ok, c'è il supermercato, adesso si chiamerà la Cobb, che è anche quello, che Giuseppe si lamentava molto, poverino, perché c'era il rumore dei, siccome ci sono i motori fuori dei frighi, capito? Quindi si lamentava molto, aveva sempre un bel QRM, mi ricordo un giorno c'ero io lì e c'era questo rumore, ma cos'è il casino? Ma cosa c'è, roba accesa? No, sono i frighi del supermercato. Ah, appunto sì. E proprio di fronte c'è la chiesa, il piazzale della chiesetta, chiesa, una chiesetta, non è una chiesa grande. E di fronte a lui c'è una villa grande, c'è una villa grande, lì abitava Giuseppe, capito? No, non è la Coop, è che quello lì è Delta Coop, quello di Alghero. Ah, bravissimo, Delta Coop, sì. Esatto, la Delta Coop, proprio di fronte, attaccata alla Delta Coop c'è la chiesetta, proprio 50 metri più avanti. E di fronte alla chiesetta, nel marciapiede dopo, c'è una villa grande, tutta recintata, molto bella, lì abitava Giuseppe. Cappa. Che antenna ci aveva Giuseppe? Una Gran Prix aveva messo, una Gran Prix di quelle grandi. Non so se l'ho tolta, se vedi l'antenna lì abitava lui. Ho capito. Andave, avanti Marco. Sì. Io mi stavo rilassando qua, come sempre a quest'ora, altro certe volte, se no mi prende una bioco formidabile, mi ve l'avevo detto che un giorno col volume basso, ascoltando 2 ore addormentato a sasso, seduto sul divano a fianco al baracchino, a quest'ora mi prende così, però poi a dormire la notte si fanno le ore piccole, vabbè. Che altro dire? Sono senza parole. Ah, io, ma non entra nessuno. Anche se lasciamo bianco non entra nessuno. Mello, mi? Sì, non volevi Antonello, Antonello, intanto adesso mi preparo, sono già detto 1.25. Adesso mi preparo, vi lascio, voi dovete mettere con le pizze, quindi mi vado a fare una passeggiata col cane. Dai, vi saluto, ciao Gianni, Marco, Roberto, chiunque sia in ascolto su 10, dai, do il cambio a Antonello, ciao anche a te Antonello, e io mi allontano che vado a portare il cane, vai Antonello. Via, ciao Claudio, a dopo, allora non c'è problema. Buonasera Marco, ben sentito, Gianni, e che c'è rimasto? Ciao Antone. Ehi, e Gianni, tu il cane che allora lo porti? 8:30. Lo stai già portando, vale. Un attimino. Ehi Antone, e qua siamo, che devi fare? La serata va passata. Che palle. Poi non ce l'ho mai passato perché, insomma, per un motivo o l'altro, o c'è da fare o, vabbè, viene male. Adesso di nuovo entriamo in lockdown e siamo fregati. Allora, vuol dire che andiamo a cosa, al centro storico, a farci la punta. E a pigliarci l'AIDS, il Covid e chissà cos'altro, la sifilide. Vabbè, lì le case davvero per il centro storico, c'è la baby gang di ragazzine, le mucolose che erano un po' le balle ci sono, se dai i pesolini in mano vedrai come stanno zitte. Ehi, ho letto sulla nuova che prima, per poco, pochi giorni prima non mettono le mani addosso al pakistano, che ha il negozio di alimentari, liquori, perché non gli ha voluto vendere gli alcolici, no, perché gli hanno già tirato le orecchie, l'hanno beccato vendendo liquori ai minori e gli hanno detto di, forse anche la multa gli hanno messa. Insomma, siccome non gliene voleva dare, per poco non gli mettono le mani addosso, capito? Ed è notizia di oggi, mi pare, sì, che questa banda di ragazzini e ragazzine hanno preso possesso di via, porca miseria, vabbè adesso lo leggo, e dice che le femmine sono più prepotenti dei ragazzi stessi, dei maschi stessi, è una cosa incredibile, ma questi cosa sono, orfani, i genitori non ne hanno, oppure sono peggio di loro. La risposta viene da sé. Ah, c'è un togliaio di aceto storico, già lo sai, viene la mamma, le cose del genere, è un togliaio adesso. Tutti dei razzini escono di là, bevono, si mettono proprio dai circoli, si bevono la birra, quando sono già cotti tornano a casa, capito? Quindi diventano strafottenti. Ma secondo che trovano, sei tranquillo che basta che ne picchi uno, fuggono gli altri, il che è poco ma sicuro. Sì, praticamente devi attaccare, devi sussare il maschio alfa, capito? Il capo branco, così gli altri si dileguano. Ma non credermi, aspetta, no, Sardegna, via, di quelle vie del Menga, e mi pare a destra di Largo Cavallotti, c'è quel vicolo, ma te lo dico, Gianni c'è ancora? Tutti desaparecidos. Allora, non la trovo più la notizia. Ma eccola qua. Ah, via al Carmine, angolo. Qua dice via al Carmine. Sì, è quella via che collega Largo Cavallotti a via Mercato. E anche a coso, lì vicino alla terza pescheteria, anche lì vanno, capito, tutta quella zona lì si fa, quindi baby ganguia, secondo che trovo, basta che ne prendi uno, sai come fuggono gli altri, cazzo, il volo prendo. E beh, Bonilli. E beh, Torino. Come va Torino, come va? Già va bene, io registro la portata Santiago 5. Chi dice la portata Santiago 5? C'è una portata fissa a Santiago 5. Ma dove? A Baracchino o da dove sei tu? A Baracchino, è da poco fa che sono in ascolto e c'è questa portata fissa. Portata fissa non intendo, no? Nulla, non niente. Tu Marco, senti qualcosa? No, qua sentivo propagazione, c'erano vari segnali e segnalini, certi sono in FM, e in AM non senti quasi la modulazione, certe volte sembra una portante, può essere pure quello. Alchimilla c'è ancora, mi stavo leggendo Antonè, in quella via dopo Largo Cavallotti a destra, esiste ancora la bottega Alchimilla, te la ricordi? C'è da 40 anni mi pare quella. Credevo che avesse chiuso, porca miseria. Oh, quella c'è ancora lì. Avvetto ancora, avvetto. Ma se continua così vedrai chi che è quello. Lui. Ho visto che ha chiuso il circolo di coso di Angelo. Quello che c'ha il negozio di pompe funebri lì in Corso Vicco. Evidentemente l'hanno massacrato il comune, perché di solito lì, capito, facevano entrare a tutti. Evidentemente gli hanno messo la multa e gli hanno chiuso il coso per un mese, visto che la serratura sta lì. Sono andato a trovare a coso lì, che lavora al comune, tu lui già se lo ricorda, Gianfranco Teschio. Guarda, sì, non era portante, era QRM, lo scorso inserito, lui questa cosa silenziosa, invece era il QRM. Sì, sono soltanto goffato, non so se è vecchio, poi da quella, io ci passo in macchina, a piedi, ma nessuno mi ha rotto le balle. Sì, a me è lo stesso, nessuno mi ha rotto le palle, grazie a Dio. Ho detto, se dovesse esserci qualche bebè così, basta che dico di uno, sai come fuggono gli altri. Il primo che trovi devi picchiare. Non è come gli altri fuggono, mica stanno lì a farsi il curino. Ma io da poco ci ho messo con uno che era drogato, ha fatto un conto. Ha detto, se continui a rompere i coglioni, ti piglia a calci a tazzi in alto. E poi il matto domani si conosce più. Matto, dai, ti chiedo scusa, a parte sua, e tu, la polizia non mi dà le male, non l'ho preso. E quindi niente. No, perché ero passato lì e non so cosa stavo, se mi sta guardando male. E dove cazzo che poi venne? E da lì è nato qualcosa. Ah, c'hanno quel vizio di accettatore con di guardare male. adesso sono passato della Madonna specialmente, mi sono telefoni 15-20 ragazzi, li ho visti tutte, ragazzi tutte con la minigonna, calzarrette, cose del genere, e fidanzate, capito? Poi ho visto che l'ambiente si è, come si dice, tutti in giro, la sera, dalle tre in poi, con la birra in mano, roba del genere, senza mascherina, senza nuda. In teoria quando sono salito, che quella volta lì, guarda, stavo per scendermene prima e farmela tutta a piedi, perché era talmente pieno di ragazzi che non si poteva manco entrare, come sardine eravamo. Si mettono all'angolo di via San Donato, come dite avete una volta. Sono bellissime, e poi anche più giù diciamo via lo scattello, però quindi non ti rompo la balla più di tanto, capito? Io ci passo ogni giorno, mi piace il bassan chimi, avanti Marco lì. Ciao Teatori, che sono da Porta del Cane. Ciao Claudio, mi hai sentito? Ok, già siamo qua. Già entro dopo, vai Marco lì. Ehi, credo che ci sia anche Antonio Bombo, l'ho sentito il bip suo. Antonio, ci sei? No, forse è allontanato, vabbè, comunque il bip era quello suo, però si sia per entrare. Poi c'era un articolo che parlava del corso Vittorio Emanuele, dice che è una polveriera tra droga, chiasso, beozia, ma è vecchio, è del 4 settembre, e comunque andrà sempre a peggiorare al corso mi. Tra romeni e nigeriani, ciucciù. E porta San Antonio romeni di quel tipo zingari, per carità, un casino, Dove sono? Di fronte abitano nella palazzina di fronte invece quel negozio cinese in cui subito l'Emanuele. Lì sono tutti parenti, sono. Sai cosa fanno? Si prendono il tavolino a fianco al circolo di Raimondo lì che c'è in cui subito l'Emanuele. Prendono i tavolini, se li mettono fuori, si comprano la birra in quei negozi alimentari di extracomunitari e se la bevono. Ma figurati, quando ho visto una cosa del genere, e poi si mettono a voi, sembrano che parlano di casa, sembrano. Conosco tutti quei domini, mi conosco, perché sono stato di 4 anni, figurati, abitavano a fianco a me, tutta la famiglia a Roma, intera, roba di 20 persone, il sabato loro c'hanno quel vizio, e si trovano tutti assieme in un appartamento e fanno festa, e cominciano a tagliare con l'agone un porcetto, un agnello, quello che trovano in mezzo strada che fregano a qualche pastore, e fanno la festa, poi quando sono corti si addufano tra loro, poi il lunedì tutti assieme sono, come tutto passato, capito? Prima si sbronzano, poi escono assieme. Marco lì. Tu quando vuoi questi li dici, se sei vecchio, dietro la mano in bocca, ti giro il rovescio, ti rispettano. Giornati che non passasse a essere vecchia. Lo sai, prima ci andavo per Piazza Tola, ci andavo per quei negozietti, come si chiamano? Quella che scende via Mercato, dove c'è l'arrottino famoso lì. C'erano le bancarelle anche in quella piazzuola, credo sia Piazza Mercato, manco non mi ricordo. Insomma, bene o male, per un negozietto, quei negozietti di scarpe, quelli di vestiario, insomma, prima era fiorente il centro, poi quando ho finito di... cioè, come ha chiuso tutto, perché ha chiuso tutto, Piazza Tola non... cioè, ci sono due bancarelle a giorni alterni pure, non c'è più niente, morto il centro. Era bello anche... adesso sta peggiorando Sassari, vabbè, tutto centri commerciali, meno passai a me i centri commerciali, poi mi è dispiaciuto di Auchan solo, invece Carrefour non mi piace, quegli altri non mi piacciono, Carrefour era, Auchan era il migliore, però è anche vero che, come ha detto un barista, dice la colpa non è, sì la colpa è del centro commerciale, ma è colpa anche dei clienti stessi, che mentre prima andavate anche al centro a Sassari Vecchia a comprare vestiario, abbigliamento, un po' di tutto, siete andati da Auchan, cioè siete andati voi clienti nei centri commerciali a comprare, e quindi avete contribuito alla morte di tutte le attività commerciali del centro storico, cioè non è Auchan da solo che l'ha fatto fallire, ma anche giustamente i clienti. e alla fine tutti colpevoli. Boh. Già è vero comunque. Qua ti interrompo io, Marco. Anche io sono un tipo che sono andato a Usciano per anni fa, anche se la cosa si chiamava Città Mercato. Quando mi sono accorto che i negozietti famosi, come dici tu, si hanno preso per il culo una vita, si hanno fatto le campagne, si hanno fatto gli appartamenti. Quando tu poi apri un supermercato, vai per caso e vedi lo stesso articolo che costa una cazzata, ci manda ancora una presa per il culo, tu dirai sì, quel negozietto comprava 20 pacchi di pasta, a Usciano compra un vagone e uno si può permettere il lusso di mettere tutto. Allora io conosco anche persone che compravano a consegnare e a fine mese pagavano come le tirava il marito, e i prezzi che li evitavano hanno fatto sempre man massa, ne prendevano per il culo, aggiungevano, capito? Poi dice, io non ce l'ho nel foglietto, c'è la copia lì, la copia io, sì, ma lì forse non ha segnato. E se ricordi bene, quella col tempo che passava hanno preso per il culo, per me sono contentissimo che hanno chiuso, basta a maniare di mani nata l'italiana dei sassaresi. Vabbè, io quello non è un aspetto che non avevo valutato, quello è vero. Oh, io ci sono andato sempre in negozi alla mano e no, non compravo roba da batta, dai negozi firmati, assolutamente. Compravo cose così, per comuni mortali, io roba firmata non ne ho mai preso, preferivo investire i soldi in altre cose. Ma è inutile che poi mi vesta tutto firmato da capo a piedi e poi non aggiudina in busciacca. Ne ho visto anche i compagni di scuola, delle commerciali mi pare. Sì, c'era questo ragazzo che era, c'aveva le scarpe di non so chi, l'orologio pagato non so quanti, e però non c'aveva niente, non aveva macchina, non aveva moto, niente. Capito? Io preferivo investirli invece a pigliare una moto usata, una macchina andante, capito? No, non roba firmata, poi per cosa? Per comunicare cosa? Che se che è più prestigioso essere tutto vestito firmato, ma mi ha fatto assai a me. Sì, ma siamo fatti, anche noi siamo fatti così, andare sul risparmio, eccetera, perché tanto buttare soldi su roba firmata, ma non ne valeva la pena, perché se tu prendi un jeans che sia una marca andante, un super lì, ti fa la stessa cosa, né più né meno, ti farà pagare la marca e basta. Basta facendo quella, ma poi la riprendi. Prima quando esisteva quel negozio che c'era in via Brigata Sassari lì all'inizio, poi l'altro negozio ce l'aveva in via La Marmora, vendevano pantaloni, roba del genere, magliette. Un giorno ho comprato un pantalone Levi's è durato meno di quello dei cinesi, il pantalone avevo pagato 50 euro, figura di due. E non ho più comprato niente, non ho più comprato. Io ricordo Marco quel negozio che avevo piazzato i baracchini io, ne aveva tre, ne aveva uno vicino a Pezzatola, poi l'altro era via La Marmora, poi c'era uno in via Brigata Sassi dove c'erano tutte quelle ragazze, te lo ricordi, che parlavano dei cavalli di sotto con le FM500S, che trovavamo a salutarle. Ma stai dicendo Chopper? No, di Matteo. Perché c'era anche Chopper in via Sebastiano Sattari? No, i negozi di Matteo sto parlando, quelli che c'aveva all'inizio di Abbigata Sassari uno, l'altro c'aveva proprio nella via dove era esplosa, dove c'era la Banca Carige, dove era esplosa la bomba, e l'altro negozio c'aveva in via La Marmora. Infatti avevo messo la lì, in via La Marmora avevo pensato la via 27L, aveva pensato a mio fratello, io lo vedo guardando sopra, quando ho visto come era il tetto, ho detto, già pensare, dici tu, mettigli la tua antenna ai soldi di una teglia, ho detto. È salito lui, quando è in mano, il cavo, dietro della piazzata, la via 27L. Dopo, quello sono stato, è durata 2 anni, dopo 2 anni arriva questo temporale, cazzo, mi chiama, Antone, mi ha detto cosa c'è? è successa una cosa, dice, ha pigliato fuoco tutto. E cazzo, ha detto, come ha fatto a pigliare fuoco tutto? Dice, è sceso il fumo, dice, da negozio, dall'antenna, gli ha 18, 12, 58, la B27L e l'FM500S. Comunque era non via San Bastiano Santo, via San Battista dove è scoppiato il gas, eccetera. Lì c'era Chopper che vendeva Patrone, Gis, eccetera. Poi ce n'era uno via Marmora, angolo via Rosello, che vendeva Gis, eccetera, che non mi ricordo come si chiama, come si chiamava, perché adesso c'è un bar. Sì, parecchi negozi sono scomparsi comunque. Anche Cucco delle scarpe via la Marmora è scomparso. Cucco era scuola con me, elementare, fate il conto. Aspetta! E dove? Buonasera a tutti, buonasera. Antonio da questa parte. Ciao Antonio. Care questa grande modulazione. E chi vuoi che sia? E gli attaggi con i cintoli. E io so. E Tonino sì. Fuzioso. Ma arrivi di tutta bomba, quindi vi riconosco. Comunque Marco lì, l'unica cosa, la sera dalle ore 19 fino alle 21 fate una bella passeggiata a Sassovicchio e tu rinascerai. Deia, ah, perché è bello vivo là, l'ambiente. Vabbè, mi è capitato di passare, ma non è che c'è proprio Sassari Vecchio, mai problemi mai lì. Ma nemmeno a Sant'Anna di Pisa di là tutta. Andavo a pigliare un amico tanti, vabbè, anni fa, no? E certi avevano paura proprio di andare anche in macchina a Sant'Anna di Pisa. Proprio dove c'è la torre, no? Il palazzo. Tutte le regioni metropolitane, no? Non è mai successo nulla, nessuno ha mai rotto le balle. Vabbè. Ci passo ogni giorno, guarda, lascio anche la macchina aperta, vado a farmacia sotto il grande cielo, quindi no, tranquillo. Santa Orsola, Sassari Vecchio, io frequento tutte le parti. Quindi, problemi non ne ho. Non ne ho e non ne ho con nessuno. È meglio che non ne hanno con me. Il problema è che riconosco tutta la Tirozzi, problemi vado. La Tirozzi conosce mai niente, no, non è più come prima, è tranquillo, dai. Poi. Riconosco il viso Gunardo in Chiave, non riconosco. Ho anche gli occhi giù di Chiave italiano, Tirozzi. Ma. Allora, Antonio. Io sono qua, sono qua. Io mi divertivo quando abitavo a Sassari Vecchio di via San Donato, questo Vito Emanuele, tutta via la Marmora era piena di cose, via la Marmora, poi aspetta come si chiama la parallela, adesso mi viene in mente il nome, tutta piena di cose, di ragazze brasiliane, di tutto vera, a parte i trans, li conoscevo tutti, li conoscevo, figurati tu. Perché frequentavo a, già lo conosci anche tu, a quel tipo anziano romano, frequentavo insieme a lui, uscivamo assieme, andavamo a bere la birra assieme lì a Ruccola. E lui, siccome faceva i lavori a come si chiama, aspetta, a Ramonda Barria, che c'ha una ventina di appartamenti lì, figurati. E qui le conoscevo tutte. Andavo lì, ciao Antonio, aiuto, vieni dentro, ti pito la birra, aiuto, siamo in spagnolo, mi divertivo allora era bello, con tutti questi che sono arrivati da poco, meglio niente qua. Sono acceso via Muraglie, ci erano che parla più con me. Esatto, sei bravo. Uscivo insieme a lui a fare i lavori, capito? Piazzavo le parabole con le ragazze brasiliane, cubane, cioè di tutto vera. Figurati tu, ne ho fatto impianti a centro storico. Ogni giorno mi facevo 50-60 euro, poi mi invitavano a cena con le ragazze dopo che finivano di lavorare naturalmente. Poi vabbè, avevo conosciuto quel pazzo di cose, l'avevano spalzato. quello era una cosa allucinante, era... c'aveva l'abitudine di rompere le balle agli altri, finché una sera non mi ha fatto incazzare, ho bigliato e ho buttato fuoco la moto, ho buttato fuoco davanti alla finestra di casa sua, è andato immediatamente giù al circolo a picchiare a uno, perché si era afferrato. Poi dopo una settimana si è fatto con quell'altro guasto e è rimasto spanzato. Oh, scusa, te so cose di otto, è stato chiamato per il giornale. Ma ci siete più tardi se ci siete ancora. Dimmi da parlare una cosa a Mami Gares. Ciao Marcolino, ciao Antonello, ciao Antonio. Ho visto l'ascoltore, ci sentiamo. Ciao ciao a tutti per me, ripeti Marcolino. Eia, ciao Tonino, dai, sentiamo. Alle prossime, vediamo se che ora è. Sono le 8 quasi. Vabbè, se no alla prossima. Vai Antonio per i saluti. Ciao Tonino, ce la risentiamo alle prossimine, ce la risentiamo. O domani o quando è, ok. Già partito, ciao Tonino, ci sentiamo domani o dopo, non c'è problema. Avanti Marco lì. Mamma mia, la Biocco mi sta venendo. Posso anche piano piano rilassarmi, accendere la TV, vediamo che film ci sono, che porcheri ci sono. La D'Urso nuda voglio vedere. Ti stavo dicendo, già me lo ricordo quel periodo, casi che eri in quella zona, Auli. Cazzo, avevo poco di pelo attaccato, tutte le conoscevo, andavo lì, ciao Tore, io, ciao, cosa c'è, non funziona il televisore, pronto, andavo lì, e io sistemavo, cambiavo telecomandi, cose del genere, c'era un periodo che era, avevo conosciuto una di queste qua. Siamo appiattati l'abitudine di baciarmi in bocca. Ciao Antonello, quando un giorno sono passato con Simona, gli ho detto si può fare. Mi hai rotto i coglioni, gli ha detto. Se tu che ancora Antonello ti metto le mani addosso e ti ammazzo. Cazzo, da quel giorno non mi ha più salutato. Beh. Sì, anche Galicia mi ha precutato, credo una. Magari non poteva pagare il danno. Ma. C'era una poverina, guarda, mi ha fatto veramente pena, era una ragazza spagnola, abitava lì all'angolo tra via Ramola e via San Donato, no? Sono andato a controllare il DVD, mi dice lui funziona il DVD, c'avevo cacciavite in tasca, perché allora c'avevo quel vizio di mettermi i cacciavite in tasca, io l'ho aperto, ho detto guarda che c'è due DVD uno sopra l'altro, ne ho staccato uno e gli ho lasciato l'altro, ho detto adesso lo puoi accendere, ho detto adesso funziona, l'ho sistemato, dice non ti posso pagare, dice che facciamo così, facciamo sesso o cosa, ho detto lascia perdere, ho detto guarda, sai cosa fai, ho detto mi dai un bacio, ho detto sono andato, non c'è problema, ah, ti ringrazio, dice qua è venuto, dice un tecnico qua vicino, voleva fare per sistemare il DVD, mi pigliava 50 euro, hai capito, voleva fare in cambio di sesso, ha detto lasciavo già lo conosco, ho detto lasciavo perdere quello che mi è esaurito, ho detto. Aspetta, il telefono. Marco! Io stavo cercando un video e ti volevo far vedere la veduta la vista dalla terrazza, no? In tutte le direzioni, ma non lo trovo più, boh, devo cercarlo sull'hard disk, boh, forse l'ho cancellato. È un'inquadratura fatta dal palazzo dove c'è l'antenna attuale, no? Per farti vedere le zone libere e le zone non libere. Conta che l'antenna è più in alto, cioè io l'ho fatto altezza d'uomo, no? Mentre l'antenna è più in alto di 5 metri circa. 4, dai, fai 4 metri, sì, 4 metri dal suolo, dal pavimento del terrazzo. Sì, fammi la foto. Che bello. non lo trovo più, boh. Tutto un casino è qua, porca miseria. Ehi, sono entrato adesso, ho portato il cagnone, molto bene, ciao Antonio, buonasera, ben ascoltato. Buonasera anche a te, buonasera. c'ero poco fa. E Tonino è andato via, Marco. Forse a cucinare, non ho capito bene. Ha detto che se poteva riprendeva dopo. Va bene, dai. Che c'è anche Antonello, Antonello riprendi? È andato che dal telefono era. No, Gagino, se lo buono deve andare, prendi il quanto. Gappa. Cagnetto è portato. Ah, magna che su gara, non mi ricordo com'è. Mi pare che c'è un pastore tedesco. Oh, forse non l'ho mai visto io, non mi ricordo, sono rincoglionito. No, non l'ho mai visto. L'hai visto giù una volta che stavi portando di qua in zona, ero giù col cane. Ah, sì, lui, no. Capo, non me lo ricordo. Io non avrei il posto per metterlo, no. Neanche il tempo. Meglio così che se c'è qualcuno che li può prendere, meglio così. E il pastore Temma è morto quello là, quell'altro. No, l'avevo dato al mio cognato, ce l'ha ancora. Lui c'ha il giardino grande, l'avevo dato a lui, ce l'ha ancora. Come mai? Perché io mi ero appena trasferito e quindi non volevo occuparmi del cane, anche perché ho sempre impegnato lavoro. Si è affezionato a lui, è rimasto con lui, io mi ho preso a Filippo, bulldog inglese. Ah, ho capito adesso. Sì, beh, hai fatto bene. Hai fatto bene, se no. Cioè, poi quando si lavora che ne ha tempo, se ce lo mandano e torre la gira. Non torre un po' gare da prato, da poi ti torre in corrente. E chi ne ha tempo? E infatti questo è arrivato, io stavo ancora lavorando, e quindi se ne occupava mia moglie, mia figlia. Allora, se ci sono io me ne occupo io. Dai che mi cambio, riprendi Marco io. Eia. Ma cioè per uscire tu ti vesti in casa come stai? Con una pelotta alla casa, diciamo, Claudio. Sì, probabilmente sì, dai. No, vabbè, io mi vesto la mattina, poi la sera mi svesto, perché sai, sempre c'è qualcosa da fare, qualche commissione da fare, breve, qualche imprevisto, che ne so, o buttare la mondezza, quindi io mi svesto all'ultimo momento. Ci sono certe notti, queste ultime notti ci sono giorni che mi sono addormentato anche vestitomi. Allucinante, cioè mi è venuto il colpo di sonno eccezionalmente, no? Mi sono addormentato vestito, poi però ti devi la mattina rispogliare tutto, fare la doccia, rivestire. No, io no. Come si dice? Io ho fatto anche tanto, siamo in due, posso girare anche mutande, no. Non ho problemi, capito? Siamo in due, io e la mia compagna. Non è un problema, capito? È il problema quando ci sono altre persone in casa, allora ti devi tenere un po' più diverso. E poi in estate, in piena estate non te ne dico. Capito? Io c'ho mamma qui, quindi è casa sua, non posso. Devo stare in pantaloncini all'Inter, ma per me col caldo che c'era starei anche a culo nudo, ma se fossi solo, capito? Dai che stavo cambiando radio, facciamo andare un po' anche il 440. Cosa sta dicendo Marco? Ah, che no, tu mi hai detto mi sto cambiando, perché anche tu ti vesti per uscire, poi ti tieni una tenuta, diciamo, casalinga, no, per stare a casa. Sì, mi ho messo la tuta e adesso mi sono messo il pigiamino. Però di va, tanto mi adesso arrivano le pizze alle 8:30, che adesso arrivano le pizze alle 8:30 e niente. E sono così, sono già pronto io, sono già lavato tutto, adesso mi ho disinfettato le mani e boh, e oggi arriva, tanto sei a casa, ora stai in giacca e cravatta, non penso. Sto qui mutando in casa. E qualcuno sto qui. Vabbè, ma qua è diverso perché qua siamo in due, quindi lo posso anche fare. Si arrotto e via. Quando ci sono altre persone viene un po' male. Per esempio cioè, se c'è caldo mi metto così. Per esempio, quando abitavo a casa di Babbo, non lo muriva. Ah beh, la libertà non c'è Cristo a pagarla, tu, normale. No, beh, mutande, sì, d'estate. Va bene, un pantaloncino a petto nudo, però adesso c'ho il pigiamino.